con Andrea Mochi Sismondi, coautore e interprete dello spettacolo Soli, che sarà a Roma all'Angelomai 11-12 aprile 2019. Andrea, ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno. Lo presenti? Sì, Soli è uno spettacolo che parte da un nostro percorso di ricerca sulle questioni dell'identità lavorativa, di come gli individui si relazionano con le comunità a cui fanno riferimento attraverso la propria identità lavorativa e attraverso il lavoro che loro fanno. E dopo aver fatto un percorso di ricerche, di interviste, soprattutto con ragazzi abbastanza giovani su questa questione, abbiamo trovato Pensaci Giacomino di Pirandello, un nucleo drammaturgico che poteva entrare in relazione in maniera potente con questa questione, soprattutto in relazione a una scelta morale che viene compiuta in Pensaci Giacomino dal professor Toti e nel nostro spettacolo Soli dal professor Serti, che è la rielaborazione nel XXI secolo di questa figura, di accoglienza e di messa a disposizione di un proprio depositato, di ciò che si è riusciti a accumulare, quello che si è riusciti a costruire in una propria vita, a persone che sono invece in situazioni di difficoltà. Quindi una scelta di condivisione, una scelta di accoglienza, una scelta divergente che scardina un po' i meccanismi con i quali la questione lavorativa e la questione dell'accoglienza vengono trattate in questo momento. Che tipo di ricerca avete fatto? Che tipo di interviste? In quali luoghi? In che tempi? Abbiamo lavorato, siamo partiti dalla città nella quale noi lavoriamo, nella quale noi operiamo, dove abbiamo il teatro, che è Bologna, e approfondendo soprattutto la questione dei rider. In questo momento la figura del rider è sicuramente emblematica di un lavoro, diciamo, mercificato, trattato come un oggetto da acquistare da parte delle grandi piattaforme e che non porta poi conseguentemente ai diritti a cui il lavoratore dovrebbe aspirare. E poi abbiamo approfondito il lavoro in fabbrica, con una relazione con i sindacati, facendo una serie di interviste, e da lì siamo partiti per costruire questa situazione di grande precarietà nella quale vivono questi altri due personaggi che fanno parte del nostro spettacolo, che sono Christian e Cristina, che entrano poi in relazione con questa scelta morale di accoglienza fatta dal professor Serti. Christian e Cristina sono due persone che noi abbiamo realmente conosciuto e incontrato negli anni scorsi, che vivevano in strada, e che insieme ad una rete di amici, di compagni, di colleghi, abbiamo aiutato a fare quel passo necessario per ricostruirsi una propria dignità, ricostruirsi una propria possibilità di vivere in maniera attiva. E proprio questa commistione tra realtà e finzione, che è poi il nucleo della scrittura pirandelliana, è la caratteristica di questo spettacolo. All'interno di questo spettacolo, diciamo, si svolge una narrazione di una storia che ripercorre alcuni snodi drammaturgici di Pensaci Giacomino, ma all'interno dei quali sono innestati dei filoni di realtà che fanno parte sia della nostra esperienza personale attraverso questo incontro di cui ti parlavo prima, sia dell'esperienza personale delle persone che abbiamo incontrato nella nostra ricerca. Che immagine viene fuori da questa vostra ricerca rispetto al rapporto tra individuo e lavoro e comunità? Viene fuori sicuramente uno smottamento, viene da un periodo nel quale la questione lavorativa era fortemente vissuta come identitaria, tant'è, no? Se pensiamo anche sia alle storie personali, ma anche alla rappresentazione letteraria, cinematografica dei personaggi, il fatto di dire io sono un medico, io sono un professore, io sono un operaio, io sono un dirigente d'azienda. Questo legame così forte tra la propria attività lavorativa e la propria individualità, la propria autopercezione, si sgretola negli ultimi anni e si sposta verso un io faccio questa attività Io mi occupo di questo, ma sicuramente in un contesto molto più mobile, in un contesto che da una parte si porta dietro tutti gli aspetti critici che conosciamo della precarietà, della difficoltà di poter impostare su basi solide un proprio progetto di vita, un proprio progetto esistenziale, dall'altra parte apre anche a scenari interessanti, diciamo, divaricando i due termini. Io non sono solamente questa cosa, io adesso faccio questa attività, potrei farne immediatamente dopo un'altra e poi un'altra ancora, poi un'altra ancora, in qualche modo avendo, cioè, un po' evadendo dalla forma di controllo sociale molto rigido che ti porta a identificarti con la tua professione e con il tuo lavoro. E della scrittura di Pirandello cosa vi ha fatto scattare la scintilla rispetto a questo accostamento? A un certo punto, questo professore che è al centro di Pensaci Giacomino decide di rispondere a una richiesta di aiuto di questa giovane coppia, che sono la figlia del direttore della scuola in cui lavora e un suo ex studente che stanno per avere un figlio al di fuori del matrimonio e quindi sono cacciati dalla famiglia. Sceglie di mettere a disposizione quello che lui ha, cioè una prossima pensione, facendo una scelta che crea uno scandalo molto forte nel paese nel quale vivono, cioè di propone ai ragazzi di fare un matrimonio di convenienza. Propone loro di sposare senza alcuna malizia la giovane ragazza della coppia. Lui si sta avvicinando al momento della morte, in maniera che poi, quando lui non ci sarà più, questa giovane famiglia, nel momento di difficoltà, potrà usufruire della pensione di reversibilità. Questa scelta porta a un fortissimo scandalo all'interno del paese e ovviamente reagiscono in maniera violenta a questa scelta una serie di figure che fanno parte dell'autorità costituita, dal preside della scuola al prete, alla sorella bigotta di lui. Questo tipo di reazione ci è sembrato avere delle affinità e delle analogie molto interessanti con le critiche ai gesti di accoglienza e ai gesti in qualche modo divergenti e scardinanti che in questo momento vediamo svilupparsi all'interno delle comunità nelle quali viviamo, all'interno del discorso pubblico, sui media. Quindi questa sua capacità di portare alle estreme conseguenze le contraddizioni nelle relazioni tra le persone, di essere così radicalmente anticonformista, di rifiutare le mezze misure di una scelta e di portarle fino a far esplodere la precarietà degli equilibri tra le persone, è il nucleo che, al di là della scrittura, che noi abbiamo completamente, l'opera è completamente riscritta, perché appunto abbiamo bisogno di togliergli quegli aspetti legati a una scrittura novecentesca per riportarli in un contesto ambientato nel 2019 in una metropoli italiana. Ma questo nucleo, questa capacità di essere divergente e anticonformista in maniera radicale è il nucleo che poi rimane nello svolgimento dello spettacolo. Come avete pensato la messa in scena? Noi lavoriamo sempre in un ambiente musicale denso, autoriale, dal quale poi discendono parecchie scelte sia da un punto di vista drammaturgico sia da un punto di vista scenico. Quindi è un allestimento che ha la parte musicale con Vincenzo Scorza che suona live e le voci di Esther Silverio e Eugenia Del Bue presenti e corporee al centro dello spettacolo, al centro del set. Quindi in qualche modo è un allestimento come in molti spettacoli che rimanda a un concerto, a un live di musica elettronica. All'interno di questo live è inserito questa bolla nella quale si incontrano una giovane curatrice di arte relazionale, quindi di progetti di arte relazionale, che su questa storia vuole costruire un progetto, e un assistente del professor Sterti che portano all'interno dello spettacolo la storia, gli aspetti più narrativi della vicenda. E allora ricordiamo lo spettacolo Soli di Ateliersi a Roma, Angelo Mai, 11 e 12 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al coautore, attore Andrea Mochi Sismondi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, viva il lupo!